Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una telefonata oggi è uno dei gesti più naturali e automatici che possano segnare la nostra quotidianità. Nell'era dei cellulari 2.0, poter parlare immediatamente con persone distanti anche centinaia o migliaia di chilometri ci sembra una possibilità che non desta più nessuna meraviglia, che diamo quasi per scontata. Eppure il telefono è stata indubbiamente una delle invenzioni che ha maggiormente segnato l'esistenza del genere umano, cambiandone nel profondo abitudini e modo di vivere. Il telefono è una delle grandi tappe verso la realizzazione di una delle grandi ossessioni dell'uomo: controllare il mondo, accorciarne le distanze, percorrerne i suoi immensi spazi in una frazione di secondo, senza nemmeno doversi muovere. E poi vincere la solitudine della lontananza, portando il calore delle voci amiche anche a distanza, a confortare situazioni di doloroso distacco forzato. Tutti questi elementi sono il carburante per l'invenzione del telefono. Un'invenzione segnata da un incredibile e doloroso destino incrociato, dal sapore inequivocabilmente ottocentesco. Il XIX secolo è un periodo magico per il progresso scientifico e tecnologico dell'umanità. Meno rapido e frenetico del secolo successivo, l'Ottocento vede però crescere decennio dopo decennio una febbrile fiducia nella scienza, nella tecnica e nelle scoperte che esse possono portare all'uomo. Fra queste innovazioni, una delle più significative è quella delle navi a vapore, che a partire dalla metà del secolo diventano dei veri e propri giganti di metallo pronti a solcare l'Atlantico. Sono i transatlantici. La prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore, dal boccaforte, odore di mare morto. Gigantesche e pesantissime cattedrali metalliche, che contenevano anche migliaia di persone, salpavano dal 1840 circa da tutte le più significative città portuali d'Europa, alla volta degli Stati Uniti e del Sud America. I transatlantici erano divisi in tre classi, che determinavano una vera e propria struttura gerarchica al loro interno. Nella prima, i ricchi. Nella seconda classe, il ceto medio. E in terza classe, la sterminata folla di emigranti che cercavano al di là dell'Atlantico miglior fortuna di quella che il destino aveva loro riservato nel vecchio continente. Il coccodrillo è una barca decisamente meno imponente di queste. Per la precisione, è un brigantino battente bandiera sarda. Nel novembre del 1834, questa imbarcazione solca le stesse rotte dei grandi transatlantici, Europa-America, tagliando in due l'Oceano Atlantico. Il capitano si chiama Bartolomeo Lombardo. A bordo 81 passeggeri, tutti italiani, diretti a Cuba. Te do la vita, perché mi vita è tuya, te entrego el alma, sedienta de ilusión, no dudes nunca que muero por quererte, te doy la vida, te doy el corazón, te doy la vida, te doy el corazón. I passeggeri del coccodrillo sono una neonata compagnia teatrale costituita da professionisti italiani, assoldati in vari teatri toscani da un impresario cubano, Don Francisco, che vuole creare a L'Avana un teatro stabile in grado di rivaleggiare con le più importanti compagnie europee. La prima metà dell'Ottocento vede l'opera italiana affermarsi in tutto il mondo. Non è insolito quindi che un ambizioso impresario sudamericano transiti dal nostro paese per tentare di portare nella meravigliosa isola caraibica un po' delle suggestioni del teatro lirico italiano. Attori, cantanti, ballerini e poi costumisti, scenografi. Tra gli 81 uomini che sbarcano a L'Avana il 17 dicembre del 1831 ci sono veramente tutte le professioni del teatro. Tra questi c'è anche un giovane tecnico che svolge le funzioni di ingegnere, macchinista e disegnatore scenico. Originario di Firenze, dove è nato il 1 aprile 1808, è il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Antonio Meucci. Antonio Meucci. Antonio Meucci nasce nella capitale del Granducato di Toscana il 13 aprile 1808, nel quartiere popolare di San Frediano. Nel 1801, per la precisione il 9 febbraio, la Toscana è passata sotto il controllo e l'amministrazione della Francia di Napoleone Bonaparte. La rocambolesca e titanica avventura imperialistica di Napoleone, discussa e discutibile sotto moltissimi punti di vista, ha portato però nel cuore di tutta l'Europa occidentale degli elementi positivi. In particolare, l'esercito napoleonico ha trasmesso a tutti i territori che ha occupato gli imprescindibili ideali illuministici della Rivoluzione francese. Libertà e uguaglianza, senza dubbio. Ma soprattutto, fiducia nel progresso, nell'intelligenza dell'uomo, voglia di scoprire il mondo. Questi ideali si concretizzano in un sistema scolastico rinnovato ed efficace, il sistema scolastico che forma Antonio Meucci, trasformandolo in un perfetto illuminista. Meucci, primo di 9 figli, studia infatti all'Accademia di Belle Arti di Firenze, prestigiosa scuola che si trova nell'ex ospedale di San Matteo, in piazza San Marco. Ai primi dell'Ottocento, la principale scuola artistica d'Italia, accoglie anche discipline di carattere scientifico, a integrare una formazione solida e completa. Firenze, via della Pergola. Il nome è dovuto a un magnifico pergolato d'uva che alla fine del Cinquecento si trova in fondo alla strada. Qui sorge il teatro più antico di Firenze e uno dei più ricchi di storia di tutta Italia, il Teatro della Pergola, inaugurato addirittura nel 1657. Dopo il diploma all'Accademia, Meucci trova impiego proprio in questo storico teatro. Qui si possono fondere le due anime della sua formazione, quella classica e quella scientifica. Meucci, infatti, diventa tecnico di scena, mettendo in mostra subito la sua inventiva e le sue straordinarie capacità pratiche. Non avete un modo migliore per comunicare? Qui ci vorrebbe il tubo acustico. Cosa? Si fissano due tubi a una corda, uno a ogni estremità. E poi una persona parla dentro al tubo e l'altra ascolta. È semplice. È la corda che porta la voce. Quello che avete sentito è un piccolo estratto dalla fiction su Antonio Meucci realizzata dalla redazione di Superquark con l'attore Massimo Ghini nella parte dello stesso Meucci. Il tubo acustico a cui fanno riferimento è una delle prime invenzioni di Meucci. Si comunica a distanza parlando in due cornette. Il filo che le collega trasmette il suono. Meucci lo fa implementare nel Teatro della Pergola per far comunicare nel migliore dei modi dietro le quinte i tecnici disposti su più piani. Pensate che oggi, dato che il teatro fiorentino è in piena attività, il tubo acustico esiste ancora e permette ai tecnici di comunicare tra loro. Trasmettere le parole a distanza. Un obiettivo, quasi un'ossessione per Meucci, il quale però negli anni in cui lavora per il Teatro della Pergola mette a punto tutta una serie di invenzioni che poi brevetterà, dimostrando il suo eccezionale fiuto creativo. Sistema per fabbricare bevande frizzanti. Nuovo tipo di carta per stampa che diminuisce le sbavature. Lampada al cherosene che non emette fumo. Materiale sintetico plastico. Nel 1824 la restaurazione ha posto fine all'avventura delle repubbliche napoleoniche in tutta l'Europa, ripristinando il vecchio ordine politico del continente. Nel Granducato di Toscana ritorna la dinastia Asburgico-Lorenze, una soluzione che scatena la reazione dei nazionalisti e dei carbonari che tramano nell'ombra per un'Italia unita. Antonio Meucci finisce nello schedario della polizia ducale in seguito a un incidente avvenuto in Piazza della Signoria, in occasione dei festeggiamenti per la nascita della figlia della Granduchessa di Toscana. Ritenuto responsabile di un lancio di fuochi d'artificio sfuggito di controllo, Meucci viene indagato. Si scopre la sua appartenenza ai moti indipendentisti che puntano all'unità d'Italia. L'inventore finisce sulla lista nera della polizia. Mi hanno dato 2 giorni per lasciare Firenze. A quelli che combattono contro la tirannia come me, li hanno fatti finire in una lista nera. Antonio Meucci pronuncia queste parole a Esther Mochi, costumista del Teatro della Pergola, con cui aveva iniziato una relazione. Si sposano il 7 agosto del 1834, nella chiesa di Santa Maria Novella. Antonio è già un personaggio in città, ma le liste di proscrizione della polizia sono una cosa seria. Per sua fortuna, proprio in quei giorni, il destino ha iniziato a preparare il suo piano. Il famoso impresario italiano Alessandro Lanari fa in modo che l'intera compagnia del Teatro della Pergola venga richiesta in blocco da Don Francisco, un altro importante impresario dell'epoca che, come dicevamo, sta scritturando una compagnia da portare a Cuba. Antonio ed Esther partono dal porto di Livorno alla volta di Cuba sul coccodrillo poche settimane dopo. Hanno ottenuto il permesso di espatriare perché ai tempi alle compagnie teatrali veniva rilasciato un visto collettivo. In questo modo Antonio ed Esther salpano verso il nuovo continente, verso una nuova vita. Non lo sanno ancora, ma salpano anche verso la storia. La Habana nel 1835. Una perla, florida e lussuosa. Pregi, eccessi e barbarie del colonialismo rendono la capitale cubana una affascinante crocevia di culture e di suggestioni, un cocktail aspro di arte, libertà e schiavitù. Meucci è direttore di scena del Gran Teatro de Tacón, all'epoca uno dei teatri più grandi e belli del mondo. Vive in una splendida ed enorme casa coloniale, poco fuori dal centro della città. La moglie Esther svolge l'attività di costumista per lo stesso teatro. Tutto volge al meglio. Inoltre Antonio studia approfonditamente l'elettrochimica e applica i suoi studi a invenzioni varie, sfornando brevetti uno dopo l'altro. La sua fama come inventore e ricercatore si diffonde, tanto che conquista l'appalto per conto dell'esercito locale della galvanizzazione delle uniformi, il processo di applicazione di un sottile strato di zinco, stagno, nichel e cromo sulle parti di acciaio, per proteggerle dalla corrosione o farle sembrare più preziose. È un grosso lavoro che gli porta fama e ricchezza. La fortuna sta girando, me lo sento. Il contratto con i militari ci porterà molti più soldi del teatro. Allora sì che riuscirò a regalarti tutto ciò che desideri. Si sa che la fortuna è un concetto imprevedibile e mutevole, soggetto ai più impensabili rivolgimenti. La vita di Antonio Meucci, che vi abbiamo fin qui raccontato, è un'esistenza piena di cambiamenti, di avventure e di spostamenti. Niente rispetto a ciò che ancora deve accadere e che in quei primi mesi a Cuba l'ingegnoso inventore italiano non può nemmeno immaginare. Le fiamme che sentite in sottofondo sono quelle che divorano il teatro de Tacón. Il grande edificio della Habana brucia, probabilmente per cause dolose, nel 1849. Le ragioni sono probabilmente da ricercare nella lotta indipendentista dei cubani contro i coloni spagnoli. In ogni caso, Antonio Meucci finisce nei guai ancora per motivi legati ai moti insurrezionali e rimane senza lavoro. Dopo essersi consultato con l'amata Esther, Meucci decide di partire, di cambiare aria. Qualcosa si inventerà, soprattutto in una città come New York, una metropoli che a metà dell'Ottocento è in piena ascesa, ricca di suggestioni e di fermenti intellettuali. Di nuovo una nave, questa volta un semplice traghetto. I coniugi Meucci giungono a New York il primo maggio del 1850. Con l'aiuto di qualche amico, trovano una comoda sistemazione a Staten Island, isoletta al largo di Manhattan, decisamente più economica del centro della Grande Mela. Se capitate a New York di questi tempi, potrete usare un traghetto gratuito che vi porta proprio a Staten Island. Al numero 420 di Tompkins Avenue, nel quartiere di Rosebank, c'è una casa museo, dichiarata nel 1980 monumento dello Stato di New York e degli Stati Uniti, nella quale ha vissuto Antonio Meucci con la moglie e per un certo periodo un grande amico di vecchia data, un certo Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi è solo il più importante fra gli esuli italiani che Meucci, memore del suo impegno carbonaro degli anni fiorentini, ospita a Staten Island. Non sono anni facili per i Meucci. Per sbarcare il lunario, Antonio si inventa una fabbrica di candele. Proprio la fabbrica, come ricorda in un suo scritto Garibaldi, diventa il rifugio per gli esuli italiani. Il mio amico Antonio Meucci, fiorentino e brav'uomo. Nonostante in quel periodo lavorassi nella sua fabbrica di candele, mi trattò come uno della famiglia e con molta amorevolezza. Siamo arrivati agli anni di quella che avrebbe potuto essere la svolta nella vita di Antonio Meucci, che invece per un bieco gioco del destino non è stata. In questi anni a Staten Island, Antonio riprende in mano un suo vecchio progetto, il tubo acustico, quello che nel teatro fiorentino della Pergola permetteva ai lavoranti dietro le quinte di comunicare a distanza tra un piano e l'altro. Il progetto viene ripreso per circostanze drammatiche e porterà a un esito altrettanto triste, incrociandosi con la meschina vicenda di uno spregiudicato tycoon scozzese. Tra poco, a destini incrociati. Hello. How are you? you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Destini incrociati. La storia di Antonio Meucci è una vicenda toccante e affascinante. La storia di un uomo puro e ricco di ideali con cui il destino ha deciso di accanirsi senza spiegazione. Dopo infinite peripezie, l'ingegnoso esule fiorentino nel 1850 approda a New York, a Staten Island per la precisione, a gestire una fabbrica di candele. Nel tempo libero Meucci si dedica alle sue spesso stravaganti invenzioni e ai suoi esperimenti. Nei primi anni americani Antonio si appassiona allo studio degli impulsi elettrici e alle diverse possibili applicazioni di queste. Fino a quando il destino lo mette davanti alla più cupa e insondabile delle tragedie. Una grave malattia per la persona a lui più cara, la moglie Esther, che si ammala di una grave forma di artrite e rimane immobilizzata a letto. Poter comunicare con lei a distanza. Questa diventa l'ossessione di Meucci. C'era già riuscito al Teatro della Pergola con il tubo acustico, un sistema che permetteva in maniera molto semplice di comunicare nel dietro le quinte del teatro, mantenendo un tono di voce basso e non udibile in platea e sul palco. Ora vuole fare di meglio. Vuole applicare le onde elettromagnetiche al trasporto della voce. Abbandoniamo per qualche istante New York e i coniugi Meucci. Andiamo in Canada, a Brantford per la precisione. Siamo nell'Ontario, sulla sponda occidentale del Grand River. Si tratta di una città di recentissima fondazione. Nasce infatti nel 1784 per opera del capitano Joseph Brant. Il nome deriva proprio dal suo fondatore. Ford in inglese significa guado di un fiume. Brant's Ford. Questa piccola cittadina conta oggi più di 90.000 abitanti, quasi tutti discendenti delle numerose famiglie di immigrati europei arrivati a metà dell'Ottocento. Tra queste, nel 1870, c'è la famiglia Bell, da Edimburgo. Sugli scozzesi c'è un luogo comune, la tirchieria. Probabilmente infondato, chissà. Però la storia del nostro secondo personaggio di oggi tendenzialmente non fa che confermare questa diceria. Forse più che tirchieria dovremmo chiamarla avidità. Quella che caratterizza Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Quando arriva in Canada con la famiglia, Alexander Bell ha solo 23 anni. All'anagrafe figura semplicemente col nome di Alexander Bell. Il nome Graham pare lo adotti come omaggio a un amico di famiglia a cui era molto legato. La sua famiglia dimostra da sempre grande impegno in un ambito piuttosto curioso, la lotta alla sordità. Il suo bisnonno a Londra, suo zio a Dublino e suo padre, Alexander Melville Bell a Edimburgo, sono professori di dizione che si occupano però del linguaggio per i sordomuti, sia quello gestuale, sia soprattutto attraverso l'articolazione delle parole per far capire ad interlocutori sordi ciò che si sta dicendo dal movimento delle labbra. Alexander, invece, compie fin da giovanissimo degli studi di carattere eugenetico, volti a capire come poter sradicare la sordità dai popoli. Insomma, la comunicazione orale e la parola detta come ossessioni che hanno in Bell un'origine piuttosto chiara. La madre è sorda, motivo che lo spinge a lavorare intensamente su processi scientifici di tipo acustico. Una volta in Canada, Alexander Bell, proprio come aveva fatto Meucci a New York, inizia a incrociare le sue conoscenze allo studio dei segnali acustici. Anche Bell sogna di poter trasportare la parola a distanza. Inizia però con la musica, inventando un pianoforte in grado di trasmettere i suoni a distanza. Tre anni dopo, nel 1873, Alexander Bell diventa professore di psicologia vocale e dizione presso la scuola di oratoria dell'Università di Boston. Qui cerca di perfezionare le sue ricerche sulla trasmissione del suono, con un obiettivo: trasmettere la voce al posto dei suoni del pianoforte. Comunicare a distanza. Un'esigenza che ha sempre segnato la storia dell'uomo, sin dall'alba dei tempi, dai primi esempi di società organizzate e strutturate. Dalle lettere ai segnali di fumo, fino al codice Morse. A poche centinaia di chilometri di distanza, uno a New York, l'altro in Canada, prima uno e poi l'altro, Antonio Meucci e Alexander Bell lavorano in parallelo alla realizzazione di questo sogno. È solo il punto di partenza per l'incrocio dei loro destini, un incrocio che segna nel profondo la storia della scienza. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially. Tra gli anni 50 e gli anni 60, Antonio Meucci, a Staten Island, a New York, apre una fabbrica di candele. Non si tratta di candele normali, ma di candele di paraffina, una sua invenzione, più durature e più economiche. Deposita il brevetto a Manhattan nel 1857 e per un certo numero di anni la sua invenzione riscontra un grande successo. Poi però la fortuna gli gira le spalle. L'ambiente affaristico di New York è molto difficile e spigoloso. Meucci è un uomo puro, poco tagliato, per tenere testa agli squali della finanza americana. Così la sua fabbrica di candele, progressivamente, a causa di scelte sbagliate, avventate, va in crisi. I debiti si accumulano, i creditori fanno causa e Meucci deve vendere fabbrica e casa. Come sappiamo, nel frattempo la moglie Esther si è ammalata e deve rimanere spesso isolata a letto. Meucci allora torna al lavoro su una delle sue tante invenzioni, il tubo acustico. Vuole perfezionarlo, sfruttare l'elettricità e riuscire a comunicare con la moglie anche quando si trova in un'altra stanza a lavorare. Due apparecchi, uno per parlare e l'altro per ascoltare, collegati a dei fili elettrici. Il principio ha un nome complicato, si chiama induzione elettromagnetica, ma nella sostanza è abbastanza semplice. C'è un diaframma vibrante e un magnete elettrizzato da un filo a spirale che lo avvolge. Vibrando, il diaframma altera la corrente del magnete. Queste alterazioni di corrente trasmesse all'altro capo del filo imprimono analoghe vibrazioni al diaframma ricevente e riproducono la parola. Meucci arriva a cogliere un'intuizione straordinaria, destinata a cambiare il mondo della comunicazione tra gli uomini. Con le tenere parole che il patriota fiorentino si scambia con la moglie malata da una stanza all'altra della sua casa di Staten Island, inizia di fatto l'era delle telecomunicazioni. Questo Meucci purtroppo non lo sa. Geniale nel trovare nuove strade e nuove vie per realizzare le sue straordinarie invenzioni. Poco concreto quando si tratta di metterle a frutto. In questo caso, il prototipo di quello che sarà il telefono viene chiamato dall'inventore telettrofono. Mentre le sue condizioni economiche continuano a peggiorare, insieme agli amici della colonia italiana di Staten Island, fonda la Telettrofono Company. Alla fine di dicembre del 1871 si reca all'ufficio brevetti per depositare la sua invenzione. La cifra che l'ufficio brevetti di Manhattan gli propone, $276, è esorbitante e Meucci non può permettersela. Con $20 riesce a ottenere solo un caveat, un brevetto temporaneo da rinnovare di anno in anno e che non offre certo le stesse garanzie di un brevetto vero e proprio, anche perché, poco distante, Alexander Bell compie esperimenti dello stesso genere, con meno creatività ma molto più fiuto per gli affari. So you call it trust, but I say it's just in the devil's game. Greed and lust, they don't care, they do me for the money. They don't care, they do me for the money. So you go to church, you read the holy word. In the scheme of life, it's all absurd. They don't care, they kill for the money. I do it, the thrill of the money. You're saluting the flag, your country trusts you. Now you're wearing a badge, you're called the just few. And you're fighting the wars, that's what you must do. I'll never betray or deceive you, my friend. But if you show me the cash, then I will take it. If you show me the crime, then I will fake it. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di Antonio Meucci e di Alexander Bell, le due figure che caratterizzano la controversa vicenda dell'invenzione del telefono. Alla fine del 1871, Meucci presenta l'invenzione all'ufficio brevetti. Non ha però i soldi per acquistare un brevetto vero e proprio, dato che ha perso tutto ciò che possedeva e tira a campare con le collette degli amici. Così si accontenta di un caveat, un brevetto temporaneo da rinnovare di anno in anno. L'anno successivo, il 1872, uno degli amici di Meucci tenta di fargli un favore, organizzargli un appuntamento con un grande imprenditore newyorkese per trattare i diritti di sfruttamento di quell'invenzione. Si tratta di Edward Grant, vicepresidente dell'American Telegraph Company. Quello che succede è molto semplice e molto triste. Meucci si reca al colloquio con Grant, gli porta i suoi progetti, dei quali ha un'unica copia. Grant gli chiede di lasciarglieli per esaminarli e, nonostante le resistenze di Meucci, riesce a convincerlo. L'inventore italiano non rivedrà mai più quelle carte. Poco fa vi abbiamo raccontato la breve storia di Alexander Bell, studioso di origini scozzesi e ossessionato dall'idea di poter trasmettere a distanza la parola attraverso l'elettricità. Bene, Bell in quegli anni lavora a Boston come docente universitario da poco tempo, ma fa il consulente per l'American Telegraph. Qualche anno dopo, Bell presenta il suo brevetto del telefono all'ufficio brevetti di New York, lo stesso tanto frequentato da Meucci. Meucci intanto viene ricevuto dall'American Telegraph e si sente rispondere da uno dei dirigenti della società che i suoi appunti sono andati persi. Meucci non ha più nemmeno i soldi per rinnovare il caveat. Il suo brevetto temporaneo decade e l'invenzione viene definitivamente attribuita a Bell, che naturalmente entra subito in affari con l'American Telegraph. Per Meucci è un colpo da cui non si riprenderà più. Alexander Bell, uomo del capitalismo americano, azioni di Bell alle stelle! $20, 20 maledetti dollari, l'equivalente di un centinaio di euro di oggi. Un importo irraggiungibile per Meucci, una cifra irrisoria se rapportata all'onta che essi rappresentano. Vedersi soffiare in dirittura d'arrivo la paternità di una delle più grandi invenzioni della storia dell'uomo. No! Nel 1877 nasce la Bell Telephone Company, prima compagnia telefonica al mondo. A partire dal 1876 si susseguono parecchi perfezionamenti e sviluppi da parte di Elisha Gray, T.A. Edison, D. Hughes. Con il telefono brevettato da Bell già nel 1877 si può effettuare la prima trasmissione su una distanza di circa 22 chilometri. Il 27 novembre 1877 Bell registra il suo brevetto anche in Italia e un mese dopo a Milano viene effettuata la prima telefonata urbana. Nel giro di pochi anni Bell crea un vero e proprio impero. Alla fine del 1880 negli Stati Uniti ci sono già 50.000 telefoni. La sua American Bell Company è un colosso impressionante al cui cospetto Meucci, anziano e segnato dalle continue avversità, sembra poco più di una formica. Certo, oltre alla clamorosa frode perpetrata ai danni di Meucci, Bell possiede anche indubbie qualità e grande spessore scientifico, che dimostra negli anni successivi. 18 brevetti presentati da solo, 12 insieme ai suoi collaboratori e numerose invenzioni, dai nastri magnetici al metal detector, che possono essere fatte risalire alla sua inventiva. Accanto a questo, però, c'è anche una spregiudicatezza di fondo, un'assenza di scrupoli che emergono anche da altri dettagli. Corruzioni di giudici, mazzette elargite per spianarsi la strada in diverse situazioni. La formica Meucci prova a ribellarsi a questa situazione. Ci metterà oltre un secolo. Un avvocato amico di famiglia, inserito nella comunità italiana di Staten Island, sostiene Meucci e la sua causa impossibile. La compagnia di Bell, preoccupata da possibili ripercussioni della vicenda sull'opinione pubblica, gli offre addirittura $1 milione per sparire dalla circolazione. Meucci rifiuta e trova un supporto, la Globe Company, pronta a sostenere le spese legali e a riconoscergli la paternità del brevetto in caso di vittoria legale. Il processo è duro e controverso e la sentenza del 1887 gli è clamorosamente avversa. Nulla dimostra che Meucci abbia ottenuto qualche risultato pratico a parte quello di convogliare la parola meccanicamente mediante cavo. Impiegò senza dubbio un conduttore meccanico e suppose che elettrificando l'apparecchio avrebbe ottenuto risultati migliori. Si conclude pertanto che Meucci ha inventato un telefono meccanico, mentre quello oggetto del brevetto di Bell è elettrico. Ovviamente, Bell ha corrotto il giudice. Meucci si ribella alla sentenza, intenta un altro processo. muore però nel 1889, senza poter seguire il dibattimento. Nel 1889 il capitale sociale del monopolio Bell sfiora i 150 milioni di dollari, mentre la vendita di tutto l'arredamento della casa di Meucci produce solo 191 dollari. Washington, 16 giugno 2002. A 113 anni dalla sua morte, Antonio Meucci si vede riconoscere i suoi meriti dal Congresso degli Stati Uniti, approvando per acclamazione una risoluzione presentata dal deputato italo-americano Vito Fossella dello Stato di New York. La Camera di Washington proclama Meucci l'inventore del telefono e Bell ne esce come un impostore e un profittatore. Giustizia, finalmente, è stata fatta. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.